Ho già trattato in altri due video il tema delle lamentele. Nel primo abbiamo cercato di capire qual è il motivo per cui lamentarci ci piace così tanto e in realtà a che cosa porta il lamento. Nel secondo abbiamo cercato di individuare 7 strategie alternative al lamento. In questo terzo video dedicato al tema vediamo in che modo possiamo comportarci quando noi ci dobbiamo relazionare con una persona eccessivamente lamentosa. Credo che innanzitutto sia importante provare a metterci nei suoi panni, cioè a chiederci come mai lui davvero si lamenta così frequentemente. Forse ha bisogno di sfogarsi? Beh, possiamo dargli il nostro ascolto. O magari ha bisogno di essere sostenuto? Ok, possiamo rassicurarlo che gli staremo vicini. O ancora forse si lamenta per dare a qualcun altro la responsabilità di uno stato di cose? Beh, in quel caso forse dovremmo cercare di fargli capire come sia importante, piuttosto che lamentarsi, cercare di prendere il toro per le corna, ovvero chiederci ok, le cose non vanno, ma cosa pensi di poter fare tu perché questa situazione migliori? È anche vero che non con tutti abbiamo la stessa convivenza e non è detto che abbiamo sempre il dovere di ascoltare sempre e comunque le lamentele degli altri, soprattutto per non correre il rischio di esserne intossicati, esporci continuamente ad una persona lamentosa, cronica, ci risucchia energie. A lungo andare ci può togliere la gioia di vivere, ci può veramente fare male. E questo, inoltre, non è detto che sia un bene anche per l'altra persona. Quindi, cosa possiamo fare in questi casi? Primo, evita di suggerire tu stesso l'oggetto della lamentela. Voglio dire, se questa persona si lamenta sempre che al lavoro gli vanno tutte male, che nessuno l'ascolta mai, che deve sempre farsi in quattro per tutti, beh, magari quando lo vedi evita di iniziare la conversazione chiedendogli allora come va al lavoro. Secondo, ricordagli qualcosa di bello della sua vita, cioè quando sta per iniziare la conversazione, anticipalo, imbeccalo su un argomento sul quale sai che lui è felice, si sente orgoglioso, qualche aspetto della sua vita di cui possa parlare in modo felice. Terzo, cambia discorso. Il tuo collega parla sempre di quel vicino di casa rumoroso e se ne lamenta in continuazione. Chiedigli cosa ne pensa della partita di ieri o se ha visto l'ultimo film uscito che a te è piaciuto così tanto. Meglio scegliere argomenti leggeri, neutri, divertenti per fargli capire che hai proprio voglia di parlare di qualcos'altro. Quarto, metti dei paletti. Se ti parla continuamente di alcune cose della sua vita privata che ti mettono a disagio, diglielo. Ludovico, ti spiacerebbe se cambiassimo argomento? Quando mi parli di queste cose della tua vita privata, mi metti molto in imbarazzo. Quinto, cerca di non rimanere da solo con chi è affetto da lamentite cronica. Quando si è in compagnia si è meno portati ad affrontare argomenti fastidiosi e se anche iniziasse potresti con più facilità cambiare discorso rivolgendoti magari ad un'altra persona. In ogni caso non dovresti affrontare da solo il peso di quella situazione e di quella conversazione. Nulla di tutto questo ha effetto a mali estremi, estremi rimedi. Allontanati da quella persona. Passa meno tempo con lei, cerca qualche volta di evitarla. Se le riunioni a casa di quel parente sono sempre così emotivamente stancanti, non sentirti in colpa se qualche volta ti troverai qualche impegno alternativo e se a causa di stanchezza potrai dire che preferirai quella volta rimanere a casa. Non mi stancherò mai di dirlo. Essere buoni cristiani ed essere persone gentili non significa necessariamente prestare continuamente il fianco a chi ci mette in difficoltà, a chi ci risucchia energia vitale. Non dobbiamo sempre sentirci responsabili di tutte le situazioni. Un buon bagnino sa che per salvare la persona che sta per affogare come prima cosa deve metterla nelle condizioni di non nuocere a se stesso. Quando in aereo vengono comunicate le disposizioni di sicurezza, una delle cose più importanti che viene detta è che se manca l'ossigeno e c'è a fianco a te un bambino, come prima cosa devi metterti tu la maschera dell'ossigeno e successivamente metterla a lui, altrimenti rischiate di essere entrambi in pericolo. Se qualcuno ci toglie continuamente energia vitale con i suoi lamenti continui, con i suoi atteggiamenti negativi, è nostro dovere fare in modo che questo non accada, perché non dobbiamo affondare insieme a lui. Se ti vengono in mente altre strategie, condividile nei commenti, lascia un mi piace e condividi questo video e iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto.